Luca Labanti. E bisogna andare a verificare bene le problematiche che si sono dimostrate anche durante il lockdown. Abbiamo visto che nel lockdown il problema dell'inquinamento ambientale è aumentato. Noi abbiamo sempre collegato l'inquinamento ambientale soprattutto al problema del traffico. Studi approfonditi hanno invece dimostrato che l'inquinamento ambientale è strettamente collegato al cosiddetto inquinamento domestico. Bologna, soprattutto il centro storico, è ancora dotato di caldaie e impianti condominiali di riscaldamento vetusti che vanno assolutamente rivisti e che ovviamente devono rendere al meglio senza causare un impatto ambientale di inquinamento di tasso molto elevato. Ovviamente io sono anche favorevole a una diminuzione del traffico, quindi dobbiamo migliorare nella maniera più assoluta il servizio pubblico. Sono contrario, come ho detto più volte, al tram linea rossa per questioni anche lì collegate a una cementificazione rispetto alla quale non sono assolutamente d'accordo e a un problema di inquinamento acustico che abbiamo visto si è verificato anche rispetto al people mover, cosa che tutti gli abitanti delle zone adiacenti al passaggio del people mover hanno già più volte evidenziato e per questo hanno protestato in maniera vivace e io sono vicino a loro.